Ama con la radunanza. E il punto di avvio di questa mia comunicazione è un dato credo per tutti, direi. La cittadinanza sta provando ad essere una parola chiave del lessico filologico con il tierno, in Italia come in Francia, come in Inghilterra. L'origine indiana della recente fortuna di questo concetto è uno scritto del sociologo inglese Marshall, che in una lezione commemorativa dell'economista suo omonimo, ritiene di dover raccogliere da quelle riflessioni estravagantes dell'economista un suggerimento che lui giudica importante e attuale. La necessità, cioè, di combinare il concetto di piena appartenenza a una comunità con una qualche forma di eguaglianza. È questa piena appartenenza ad una comunità che il sociologo suggerisce di nominare cittadinanza. Solo che, nel punto della cittadinanza, oggi si è arricchita di nuova sostanza ed è stata investita da un formidabile apparato di diritti. E guardando i diritti di cui la cittadinanza si compone, che il nostro autore propone la consueta ripartizione di diritti civili, politici e sociali, ma l'aspetto più interessante delle pagine marshalliane è un tentativo di una vera e propria ridefinizione di cittadinanza. Nella cittadinanza si congiungono appunto l'appartenenza ad una comunità, direi la condivisione di una forma di vita storicamente determinata, e la titolarità di una serie variabile aperta di diritti. Questa idea di cittadinanza che Marshall ritiene di raccogliere direttamente dalla storia europea degli ultimi secoli, ed è grazie a questa idea di cittadinanza che diventa una comprensione della vicenda storico-sociale degli ultimi secoli dell'Europa. Si assiste così in Marshall ad un gioco combinato di passato e presente, di storiografia e sociologia, di implicazioni giuridiche e etico-politiche, un impasto interessante che appunto rende indubbiamente suggestive le pagine di sociologia inglese e ne spiega il singolare recente. Ora, nel breve spazio di questa comunicazione, io vorrei esplicitare solo alcuni dei problemi che nascono dall'incontro intorno alla cittadinanza di svariate dimensioni disciplinari, innanzitutto la geografia. Lo so limitarmi ovviamente a un semplice elenco, alla disposizione dell'indice, diciamo così, di un'ipotetica e di una ricerca. Il primo e più esplicito nesso disciplinare è quello tra sociologia e storiografia. La scommessa che ne consegue la formazione più interessante per gli storici è l'idea che si possa riportare nel concetto guida, la cittadinanza, appunto, una enorme varietà di azioni personali, costituzioni, evoluzioni e quant'altro, che si possa, grazie a cittadinanza, riportare con molteplicità alla comunità. Al concetto di cittadinanza, insomma, si attribuisce la capacità di cogliere la principale direzione di senso di un processo storico che, dalle disuguaglianze accentuate nella società di antico regime, conduce all'uguaglianza giuridica e agli ideali redistributivi delle guerre. È questa la suggestione marshalliana che agisce sul terreno della sociologia politica, da vari anni ormai, dove ricerche anche molto diverse dei risultati, condividono il medesimo atteggiamento metodico. La cittadinanza non è, in questo ambito di ricerche, non è tanto l'oggetto quanto lo strumento della ricerca. Cittadinanza è marshallianamente appartenenza e diritti, ma ciò che conta non è la consistenza storico-teorica della nozione comunitaria, ma la sua efficacia operativa nel mettere a fuoco un processo storico-sociale. Il ruolo del concetto di cittadinanza in questa prospettiva sta nel taglio particolare che si imprime alla ricerca, inducendo a spostare l'attenzione dalle istituzioni di vertice, dalle strutture statuali, dal centro del sistema politico, alla periferia, ai singoli, alle modalità della loro iscrizione nel sistema politico. L'effetto Marshall, chiamiamolo così, sulla recente letteratura storico-sociologica è consistito appunto nel suggerire un diverso criterio di tematizzazione che assume come protagonista il singolo soggetto, le modalità e la qualità delle sue condizioni di vita e insieme i suoi principi. In questa prospettiva, dunque, la cittadinanza funziona come strumento metalinguistico di ricerca. Se la cittadinanza è appartenenza ai diritti, allora la ricerca storico-sociologica in tema si occupa del rapporto tra il singolo e le istituzioni pubbliche nell'Europa degli ultimi 2 secoli. Esiste però, mi sembra, una serie di prospettive disciplinari e attitudini tematiche che rovesciano i termini del problema, così come l'ho ampiamente illustrato, e così come ha preso vigore nell'ambito di questo tipo di ricerca storico-sociologica. Attitudini disciplinari che lavorano non attraverso, ma intorno a cittadinanza. E tentano di capire non che cosa si può fare in sede storiografica con cittadinanza, tentano di capire che cosa è, che cosa è stata, che cosa può essere cittadinanza. Cittadinanza, insomma, viene ora problematizzata direttamente come tale. È l'insieme dei suoi significati storicamente consolidati che costituisce l'oggetto diretto dell'analisi. Torno di nuovo in un po' alla storiografia. ma una storiografia questa volta interessata alla semantica di cittadinanza, a cittadinanza come veicolo di significati e strumento di comunicazione sociopolitica. Manteniamo noi in piedi l'idea marshalliana: cittadinanza è appartenenza e diritti. E allora la domanda in questa prospettiva è: quando e come appartenenza e diritti si sono venuti combinando insieme nell'espazio semantico di cittadinanza? E poi dovrò essere di nuovo, se avete sommario e selettivo nella indicazione dei colleghi che una storia semantica di cittadinanza si trova di fronte. Il primo problema, le origini. Occorre individuare, ovviamente, con una qualche volontarietà certo, un qualche momento del passato a partire dal quale dare inizio alla narrazione. Ora, nel nostro caso, potremmo facilmente trovarsi sbalzati da due estremi. Da un lato, l'idea di cittadinanza ci riporta ad un antico. Può riportarsi un antico alla celebre definizione esoteriche del contenuto del terzo libro della politica. E dall'altro lato, è difficile non riconoscere con Habermas che, cito di recente, solo di recente il concetto di cittadinanza viene allargato nel senso di designare uno status di cittadini definito da Derrida. Possiamo immaginare una brevissima scelta che si distenda tra questi estremi radicali, tra il mondo antico e addirittura la moderna costituzionalistica? La risposta dipende dall'immagine di storiografia volta a volta condivisa. Chi predica la storia semantica di un'idea, per riprendere il celebre sottotitolo della grande opera di Spitzer, sceglierà la soluzione. Chi vorrà valorizzare il carattere contestuale e condizionato delle diverse soluzioni discorsive tenderà a sottolineare i momenti di forte discontinuità che rompono l'apparente unità della vicenda narrata. Ora, commettiamo di scegliere questa seconda prospettiva. E la domanda è: quali sono i punti di riferimento che, con molta approssimazione, possono permetterci di segnare gli snodi, le fasi di sviluppo della nostra ricerca? Il primo utile contrassegno può essere forse costituito dall'emergere, eppur nel quadro di una perdurante organizzazione circolante della società, di quella forma di organizzazione del potere che chiamiamo Stato, lo Stato moderno della forma assolutistica. Si tratta però di una delimitazione di massima che non chiude ma apre problemi. Cittadinanza come appartenenza ai diritti, dicevamo. Ma quale appartenenza e quali diritti? E quindi appartenenza ai diritti di chi? Di quale soggetto? Ora, non appena riferiamo la nozione marshallianamente univoca e semplice di cittadinanza alla società di antico regime, troviamo forse per essa una sua remota origine, ma in realtà costringiamo questa nozione marshalliana di cittadinanza ad una notevole torsione, complicazione e confusione. Appartenenza. Certo, il soggetto della società antico regime si muove nella cornice anche di una sovranità che fa i propri sforzi per divenire modernamente accettata, ed è quindi un soggetto che intrattiene con il centro sovrano un rapporto di appartenenza, forse lo stesso, ma nello stesso tempo quel soggetto è un soggetto che sperimenta quotidiani e non meno forti legami di appartenenza al centro, alla città. Ha detto delle cose interessanti sul punto di Schneider, su questa diversa valenza che il concetto di Schneider in una società che è ancora profondamente impressionata dall'intervento della tradizione cittura. Fino a che insomma ci muoviamo in tradizioni testuali fortemente legate all'organizzazione cittuale della società, e l'appartenenza e i diritti si frantumano in una molteplicità di legami e di posizioni che costituiscono, a mio avviso, solo un precedente remoto della nozione moderna di cittadinanza. E parlano di prova, l'idea di cittadino nella Francia del Seicento e del primo Settecento non esclude, come ci sembrerebbe ovvio, del suddito. Lo stesso soggetto è spesso connotato insieme come suddito e cittadino, a seconda che della sua posizione si voglia sottolineare il momento della soggezione al sovrano o piuttosto il momento dell'azione liberamente svolta in funzione del pubblico bene. Ecco perché, come ha ricordato Stolbeis, il passaggio da una all'altra nozione non è affatto semplice di lineare come il comunista corrente, perché è amore di facilità di analisi. Ora, in questo processo di passaggio, mi sembra determinante il diffondersi del lessico teorico del giustaturalismo, in particolare del giustaturalismo locchiano, di quel locchismo, diciamo così, allo stato vissuto di tanta cultura settecentesca, dall'illuminismo scozzese alla aristocrazia, a tante voci dell'enciclopedia, alla cultura dei costruenti americani. È il giustaturalismo di ispirazione locchiana che inaugura, vorrei dire, l'irruzione dell'antropologia filosofica nel vivo del lavoro semantico di cittadinanza. Il campo semantico di cittadinanza deve cominciare ormai a fare i conti con quella nuova costellazione lessicale che ruota intorno a uomo. Uomo in stato di natura, all'uomo cioè, forte metafora, colto nella sua realtà profonda ed essenziale. È la definizione di uomo come soggetto di bisogni, come soggetto libero, razionale, appropriativo, proprietario, che influisce sul campo semantico del cittadino, sia in assenza che in presenza di questo termine, e ne esalta alcune componenti, la libertà e la proprietà, dice. Queste componenti vanno documentate, ma contano soprattutto come momenti di quel processo di autodeterminazione del soggetto che si pone esplicitamente come atto di fondazione e di legittimazione del politico. E allora continuiamo a giocare con i termini della definizione marshalliana, appartenenza e diritti. Nel momento in cui si fa avanti l'immagine locchiana di uomo naturale, l'insieme degli obblighi e delle aspettative del singolo di fronte al politico tende a porsi come realtà seconda rispetto al momento fondante della soggettività. Il campo semantico di cittadinanza, in questo contesto, funziona attraverso il filtro obbligato di uomo, così come il locchismo poteva immaginando che ne altre. E quando si interrompe il nesso cittadino-uomo in senso locchiano, procedendo di nuovo verso un campo di modo salto i tempi, in una ricerca che dovrebbe avere altre profondità, un'interruzione originale che premonitrice mi sembra che la si possa ricercare in alcune celebri pagine del contratto sociale, dove il campo semantico di cittadino muta essenzialmente perché include ormai come propria parte integrante la sovranità. Sovrano non è più qualcosa che sta di fronte ad un cittadino che è già in realtà intimamente definito nei suoi contenuti dall'uomo naturale e dai suoi bisogni nel senso chiaro. Cittadino e sovrano si definiscono ora attraverso un nesso reciproco di reciproca inerenza e lasciano fuori l'uomo chiaro, il mondo di bisogni, di soddisfazione, di utilità e protezione. Continuando con questa rapidissima individuazione di fasi, credo comunque che il momento che vuole dire inaugurare della nozione moderna di cittadinanza in senso marshalliano è costituito, a mio avviso, da quella straordinaria accelerazione di Stuart rappresentata dalla rivoluzione. E l'impressione è che proprio dal vivo dei dibattiti rivoluzionari emergono gli aspetti caratteristicamente moderni della nozione di cittadinanza. E so ovviamente che il problema è complesso, enorme, va dalla questione della scienza culturale, della rivoluzione e della mutazione dei suoi vari componenti e qui sarò ancora perentorio questo marco. Mi chiedo che tipo di relazione viene a costituirsi nei grandi testi della rivoluzione tra i membri che circoscrivono il campo semantico di cittadinanza. È sovranità nazione che si pone al centro della costellazione semantica di cittadinanza, oppure è ancora l'immagine per intendersi l'occhiana di uomo che pesa sul lavoro semantico di cittadino? Io credo che si tratti di una falsa alternativa. È vero infatti che se cittadini, in quanto si appartiene a quella nazione che è l'unica detentrice pensabile della sovranità, ma è vero anche che si dispone come cittadini di diritti il cui fondamento continua a avere un carattere naturale, inalienabile, sacro, e rinvia direttamente alle caratteristiche di quell'uomo naturale su cui da più di un secolo il giudizio si fonda. Il campo semantico del cittadino, insomma, sembra collocarsi in una posizione centrale intermedia tra i suoi correnti estremi. Né nazione e sovranità per un verso, né uomo per un altro verso, in senso piano, si rapportano ad esso come poli esterni, ma entrambi concorrono dall'interno come parte di un campo semantico unitario alla sua produzione di senso. La cittadinanza con l'appartenenza ai diritti, dunque, trova il suo preciso punto di immersione nei dibattiti, nei testi rivoluzionari. È una cittadinanza che si definisce come appartenenza, nel vincolo primario che lega il soggetto alla nazione, che il cittadino prende a esistere come tale, ma è anche una cittadinanza il cui contenuto si precisa in una serie di diritti che vengono ricondotti quanto al loro fondamento, alla struttura naturale, essenziale e profonda dell'uomo, anche se dipendono quanto al loro esercizio dalle prescrizioni della legge, quindi di nuovo dalla nazione sovrana. Tutto risolto dunque armoniosamente, direi di no, proprio perché la posizione mediana di cittadinanza all'interno di questi testi fa sì che essa si apra, per così dire, contemporaneamente al mondo alto della sovranità nazionale e al mondo basso dei bisogni e delle utilità naturali dell'uomo. E niente garantisce che la rappresentazione del soggetto e dei suoi diritti si armonizzi senza difficoltà con i contenuti dell'appartenenza. E infatti, valgono alcuni esempi, alcune riprove. Si Chies, che da buon lettore di Rocco valorizza l'uomo proprietario e inventa le fortunate categorie dei cittadini attivi e passivi. Il che significa tutti sono cittadini, ma non tutti i cittadini sono uguali, o per meglio dire non tutti i cittadini sono uguali da ogni punto di vista, e sarà appunto la proprietà, o per meglio dire la presupposta antropologia rocchiana dell'uomo proprietario, ad inaugurare quella moderna e non ancora subita tensione tra le due libertà che trova di nuovo per la tradizione francese lo spazio discorsivo nel quale esprimersi. E ancora, saranno lo spazio discorsivo della rivoluzione, o almeno delle sue curvature estreme, che prenderà corpo un'altra grande coppia opposizionale, destinata a ottenere fortuna successivamente, l'opposizione di libertà formale, libertà reale o di fatto, destinata a fortune successive, ma capace fin da subito di alimentare la tensione tra il diritto di proprietà da un lato e i diritti da una qualche prestazione positiva ed assistenziale da parte dello Stato. Appartenenza ai diritti scandiscono dunque insieme il campo semantico della cittadinanza rivoluzionaria, ma non coesistono pacificamente. Direi anzi che il carattere specificamente moderno della cittadinanza rivoluzionaria consiste proprio nel fatto che essa, nel momento in cui inaugura il mondo dei diritti del soggetto, lo costituisce come campo di tensioni irrisolte. Occorrerebbe riflettere a lungo sul senso di modalità delle tensioni o contraddizioni interne al campo semantico della cittadinanza, ma non c'è tempo. Richiamerei l'attenzione soltanto su un dato forse meno evidente. Pur nella loro diversità, i diritti nei quali la cittadinanza si concreta gravano tutti congiuntamente intorno ad un centro che costituisce, per così dire, il grado zero degli enunciati intorno alla cittadinanza. Il grado zero è il soggetto, l'autonomia del soggetto, l'idea della sua autodeterminazione, se pensi in questo senso emblematicamente al campo. La storia della cittadinanza potrebbe definire, da questo punto di vista, la storia di una sorta di antropologia politica della modernità, la storia di un soggetto che insieme definisce i propri diritti e si definisce per la sua stessa. È la presupposta identità di origine culturalistica del soggetto che ha guidato le danze dei significati intorno alla cittadinanza. È un'implicita ma efficace immagine di soggettività che ha dettato volta a volta l'una o l'altra lista di diritti, che ha suggerito ora di includere, ora di escludere, ora di allargare, ora di restringere il campo insieme delle pretese e dei pretesi. Si pensi di nuovo al ruolo dell'immagine filosofico-antropologica del soggetto proprietario. È il radicamento antropologico di proprietà che ha dettato insieme un meccanismo di inclusione. Sono i proprietari, i cittadini autonomi, attivi, e di esclusione, e il non proprietario, per la definizione razionale indipendente, il cittadino passivo. Ma è solo un esempio. Si pensi ancora alla definizione del soggetto fondata sulla sua identità vigente. E troveremo un secondo esempio, l'applicazione della stessa regola. Una regola che emerge nel giustorismo comunistico, ma è tuttora vigente, a mio avviso, e secondo la quale la definizione dei diritti dipende da una soggiacente immagine della soggettività. E questa immagine a sua volta si struttura secondo un meccanismo di inclusione e esclusione, che sposta via via i propri confini, ma si propone continuamente sempre più forte. Non è comunque solo questo il lascito alla nostra stretta contemporaneità della cittadinanza rivoluzionaria. Si pensa alla propria componente etica che accompagna la vicenda illuministica di cittadinanza e trova poi la sua accelerazione nelle virtù del cittadino rivoluzionario. L'appartenenza implicita nella cittadinanza non è soltanto una struttura, un fatto, ma è la fonte di un'obbligazione che può essere anche giuridica, ma è innanzitutto etica. La cittadinanza appare così un nodo implicato fin dal suo momento inaugurale, appunto, e dove l'affermazione dei diritti del soggetto si cura con la logica dell'appartenenza e del comportamento orientato ai valori. Anche da questo punto di vista, l'illuminismo e la rivoluzione si pongono in diretta continuità con il presente, e dove la ripresa di interesse per la cittadinanza si svolge, certo, come dicevo, sul terreno della sociologia politica o della geografia, ma anche, e forse principalmente, sul terreno della filosofia morale. Ho parlato, forse confusamente, certo, molto rapidamente, sino di alcuni aspetti di una possibile storia semantica di cittadinanza. Vorrei ora chiedervi in che termini potrebbe porsi una storia giuridica di cittadinanza, nell'inteso tempo di quella cittadinanza definita marcialmente come appartenenza e diritti. Mi limito qui veramente a nominare solo alcuni problemi. Il primo dato su cui riflettere è che i diritti dell'uomo e del cittadino, in America prima e in Francia poi, vengono ospitati in un tipo di testo che presenta se stesso come testo costituzionale. Si parla appunto, ovviamente, di processo di costituzionalizzazione dei diritti. Ora, che cosa realmente si intende dire e fare, non solo dire, ma anche fare, con due effetti, nel momento in cui l'Assemblea denomina come costituzionale il testo che si accinge a varare? Qual è il sistema delle garanzie che a tutela dei diritti dell'uomo, contro il cittadino, ci si può attendere dall'inserimento di cittadinanza dentro una o l'altra carta costituzionale? E da questo punto di vista, che la recente costituzionalistica costituisce il passaggio dallo stato di diritto dell'età liberale al recente stato costituzionale. E da questo punto di vista, che diviene istruttivo il confronto tra Belgio e Francia, sul quale mi sembra illuminato la modernistica promossa anche davanti nel suo corso. In questa serie, per me, è solo possibile richiamare il problema senza entrare nel merito. Posso semplicemente semmai comunicare una sensazione. La sensazione cioè che laddove operi un modello di Stato dentro il quale legge e Costituzione tendono a sovrapporsi, a confondersi come momenti della sovranità statuale, la storia strettamente giuridico-costituzionale dei diritti è prevalentemente una storia di sottrazione e di assenza. E accanto però alla scrittura costituzionale esiste il dato giuridico, naturalmente la giurisprudenza, alla quale non posso in nessun modo e certamente però già nel sistema giuridico che ritroviamo quel gioco combinato di appartenenza soggetto ai diritti che dicevamo scandire marcialmente una nozione di cittadinanza ed ecco quindi che torna l'onere per lo storico di chiedere quale appartenenza, quale diritti, quale soggetto. Si pensi alla costruzione giuridica della libertà in Germania e Italia, si arriva alla libertà del soggetto entro un'impostazione statocentrica. La condizione della centralità dello Stato si forma però per così dire prima della giuridica. Deve essere ricondotta alla grande svolta antiluministica del primo Ottocento e dipende da una sottesa antropologia, l'antropologia dell'appartenenza di nuovo del soggetto al popolo, Savignano, Candiani, da vedere riferimenti, al popolo e quindi allo Stato. In questa prospettiva, i diritti del soggetto, i diritti di libertà, dipendono da un soggiacente legame di appartenenza. E non importa qui, in questa prospettiva, ovviamente, valutare cosa dire, il grado di durezza di questi diritti e quindi il tono più o meno autenticamente liberale da teoria, se li sostiene. Qui serve semplicemente tenere presente che è sulla base di un legame di appartenenza, sulla base dell'appartenenza al popolo Stato e sulla base della presupposta antropologia che i giuristi costruiscono la posizione del soggetto e salvano le sue libertà. E dunque un legame di appartenenza specificamente connotato che prendono forma nella teoria giuridica dell'Europa continentale i diritti di libertà. E si cambiano ora drasticamente, rapidamente, zona e protagonisti del sapere giuridico docentesco. E troveremo all'opera un'altra appartenenza e un'altra idea di soggetto. Assisteremo conseguentemente all'emersione di un'altra categoria di diritti. Si pensa ai giuristi raggiunti dalle istanze solidaristiche e dall'organicismo socializzante della cultura positivistica. È ancora sulla base di una particolare, diversa rispetto alla precedente, l'idea di appartenenza, è sulla base del vincolo originale campo che lega il soggetto al gruppo sociale, sulla base di questa idea di appartenenza, che i giuristi prendono lentamente a familiarizzarsi con una nuova, diversa classe di diritti che chiameranno sociale. È ancora il vincolo di appartenenza del soggetto, in questo caso della società, che stringe il soggetto in una rete di nuovi e di nuovi diritti. Si configurano così ampiamente discussi nella dottrina giuridica prodotta nel Novecento, due classi di diritti, ben noti ovviamente, i diritti civili, sociali, la cui diversità o addirittura reciproca incompatibilità sarà sempre di nuovo ribadita da una parte consistente della dottrina giuridica fino a tempi più recenti, ben dentro al Novecento. La drammatizzazione di questa incompatibilità tra queste classi di diritti nasceva innanzitutto come ovvio da scelte ideologico-politiche inconciliabili e fortemente divergenti. Al fondo delle posizioni, però, a mio avviso, agivano anche le diverse logiche di appartenenza alle quali le due classi di diritti avevano finito geneticamente e quindi strutturalmente per ispirarsi. Da un lato l'appartenenza allo Stato della tradizione scritturistica organicistica, dall'altro lato l'appartenenza alla società dell'organicismo naturalistico, compiamo, spezzeriamo, comunque positivistico. Da un lato la rappresentazione di un soggetto che si costruisce entro lo Stato lo spazio delle libertà negative, dall'altro lato il soggetto che è forte del primato ontologico della società e del vincolo della solidarietà piega lo Stato alla logica funzionale della prestazione positiva dell'intervento attivo, informatorio, socialmente conciliativo. La cittadinanza originariamente, giusto naturalisticamente unitaria appare ora sdoppiata in appartenenza e diritti difficilmente conciliati. nel momento inaugurale della vicenda, appunto, per gli illuministi, nel corso dei francesi, lo sdoppiamento della cittadinanza aveva certo un fantasma che turbava i loro sogni. Non perché, però, non perché per loro i diritti sociali e i diritti civili, di uguaglianza di fatto o di diritto fossero categorie pacificamente componibili. Erano al contrario, si è visto nel momento più drammaticamente spinto in avanti per così dire delle nazioni francesi, erano al contrario categorie ideologicamente, politicamente contingenti. Ma lo erano, sul piano ideologico politico certo, ma non erano tanto contingenti da spezzare un presupposto antropologico ancora sostanzialmente comune. Quel dono naturale, quel soggetto di bisogni e di diritti che attraverso l'intervento necessariamente razionale della legge godeva della realizzazione dei propri diritti naturali. Vogliamo trarre una modesta e provvisoria morale di questa favola. La cittadinanza sembra mantenere in questa prospettiva una sua sostanziale unitarietà solo quando è in grado di rinviare ad una unitaria e intrinsecamente coerente immagine antropologica agita dalla cittadinanza. Il successo di cittadinanza nei dibattiti rivoluzionari può in parte almeno forse ricondursi proprio alla semplicità e univocità del rapporto che essa è intrattenuta con la soggiacente antropologia. Nel corso dell'Ottocento, invece, ciò che sembra smarrirsi è appunto questa idea di soggettività unitaria e ampiamente condivisa, con il conseguente moltiplicarsi e contrapporsi, confliggere delle appartenenze e delle corrispondenti classi di diritto. Se questo è vero, una scommessa oggi sull'efficacia teorico-politica della nozione di cittadinanza dovrebbe, a mio avviso, convertirsi in una difficile scommessa sulla individuabilità e condivisibilità di una nuova e comune antropologia. Grazie.